Ci sono quelle volte di mattina in cui ti sbrighi perché sei in ritardo, apri la porta dell'ufficio, accendi tutte le luci, apri il computer, ti metti in postazione perché sai che sta per arrivare il cliente, sai che sta per iniziare la giornata e non ti funziona la linea internet perché magari ti sei scordato di pagare una bolletta. E immediatamente dopo, come ti sei resa conto di questa cosa, entra il primo cliente e dice buongiorno. E tu gli diresti volentieri buongiorno un cazzo. Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No? E se non sta un metro e mezzo, no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid! Non c'è niente! Lo sbarco sulla luna è stato finito. Abbiamo fatto gli studi, settimana, e noi siamo arrivati a questa situazione. Stavate qua a mutanda da fascia, pezzo di merda! Pezzo di merda! Sputo, che fai? Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Long time radio. Ne fa un'altra. Carissimi amici di Runtime Radio, benvenuti a questa nuova puntata di Buongiorno un cazzo, puntata del lunedì. Mi scuso intanto per l'altro lunedì che sono stato assente per ragioni pratiche, tecniche, geografiche, per qualsiasi altro tipo di motivo che adesso non ricordo, ma probabilmente forse non c'avevo il tema. Questa puntata sarà leggermente più leggera rispetto alle altre, e poi dalla prossima settimana torneremo alla serie di argomenti che ho comunque preparato, ho messo in ballo per questo tipo di trasmissione. Intanto fatemi dire che ieri sera è stata una bellissima puntata di Mono, che è già disponibile per il download, e una bellissima puntata di Runtime di Notte, che anch'essa è già disponibile per il download. Ma soprattutto questa mattina è uscito Techno Bills e adesso siamo in diretta, e questa sera ci sarà alle 21.30, alle 21 scusate, OGM, con una puntata dedicata a Maradona, perlomeno i primi 5 minuti, 10 minuti insomma, dedicati anche a Maradona. Dicevo, questa è una puntata leggermente più soft rispetto a quelle normali, perché è una puntata che prende spunto dalla puntata di giovedì del podcast il mattino al podcast in bocca, l'oro in bocca, il podcast all'oro in bocca. Scusa Leo, io te voglio bene, hai ragione, dovrei un attimo avere le finestre aperte quando parlo di cose che insomma riguardano Runtime Radio. Comunque, durante le trasmissioni che il martedì e il giovedì Leo fa alle ore 7:20 di mattina in diretta, dove lui diciamo fa queste sue riflessioni e poi prende spunto anche da quello che magari durante la discussione in chat viene fuori, alla fine insomma vengono dei bei monologhi, vengono degli spunti interessanti, e da quella puntata di giovedì scorso in effetti io prendo spunto, così come prendo spunto un po' anche da un argomento che è stato detto ieri sera a Runtime di Notte sul discorso della sincerità e il disagio, no? Perché comunque noi ci rendiamo conto che spesso e volentieri, quando siamo molto diretti come persone, siamo molto sinceri, un po' per disabitudine anche dal punto di vista proprio culturale, ci rendiamo conto che la gente prova una sorta di senso di disagio, no? Verso di noi, oppure verso la persona nella specifica, insomma, che può essere considerata più sincera, più diretta, insomma. E questo mi ha fatto riflettere su quanto la sincerità, l'essere abbastanza diretti, si sposi con la professionalità, con il modo in cui uno dovrebbe porsi nei confronti anche di un cliente. perché qui subentrano tutta una serie di piccoli fattori, di vari fattori, insomma, un po' il fatto che comunque se quello è un cliente tu comunque stai lì per vendergli qualcosa e quindi in teoria dovresti fare di tutto per riuscire a strappargli la cosa che gli vuoi vendere, quindi a strappargli ovviamente questo contratto o l'acquisto o quello che può essere. Dall'altra parte c'è anche un fatto invece più etico, diciamo, più deontologico, è quello sì, però non è che lo devo fare a tutti i costi, no? E poi c'è anche un discorso legato proprio all'educazione, comunque tu il cliente insomma lo devi portare dalla tua parte comunque in qualche maniera, no? E questo sicuramente è abbastanza in contraddizione col fatto di non lo so, cioè quello di essere più onesto, più diretto, insomma, con lui, no? E questo a volte mi ha fatto riflettere, perché mi ha fatto capire quanto molti di noi, intanto salutiamo Michela in chat, che pur essendo come ho detto all'introduzione senza internet, comunque ci sta ascoltando, perché l'ho detto insomma nella pre-intro, insomma nel fatto che comunque che entri in ufficio e non c'hai internet, e insomma entra un po' in contraddizione col fatto che comunque tu devi essere, puoi essere come persona, diciamo, una persona onesta, schietta e comunque poi alla fine anche accomodante, e questo mi ha fatto capire quanto io sono incompatibile con un certo tipo di atteggiamento. Non è un pregio in senso assoluto, non è forse neanche un difetto, però è chiaramente è un problema, nel senso che comunque nel momento in cui tu ti approcci all'esterno, verso gli altri che vengono da te per acquisire informazioni, per acquisire un preventivo, per acquisire anche magari un prodotto, una polizza, è chiaro che questa cosa insomma alla fine collide insomma in maniera abbastanza evidente, e io mi sono trovato molte volte in difficoltà, perché comunque c'è un atteggiamento di base che bisognerebbe avere comunque, e che per quanto io mi sia sforzato tante volte, e ammetto di essermi sforzato, ci sono delle situazioni limite nelle quali poi io chiaramente non sono più stato compatibile con questa cosa, cioè è stato più forte di me, e ci sono cose memorabili in ufficio dove praticamente io ho veramente insultato le persone, e a volte mi sono trovato anche a trovarmi davanti a situazioni dove si capiva perfettamente dal mio sguardo che io ti sto per mandare a fare in culo, anche se magari la persona di per sé non ha fatto, cioè gli sembrava non aver fatto, però ci sono quelle persone che tu dici: io questo lo voglio proprio, cioè proprio assolutamente vorrei mandarlo a quel paese. Intanto salutiamo anche Alex e Lobby Frontali in chat, e Michela che ci dice che ci ascolta dal telefono con i giga illimitati, vabbè, non so, comunque vabbè, poi dopo ne parleremo. E questa cosa poi alla fine mi ha allontanato un po' dal mio lavoro, dalla mia professione, mi ha allontanato gradualmente, perché questa mia essere diretto e questa mia sorta di senso di giustizia spesso e volentieri si è reso totalmente incompatibile con quella che era la mia funzione all'interno del mio ufficio, che era magari quella di gestire determinati rapporti, di gestire magari i sinistri, di gestire comunque tutte quelle parti un po' più delicate quando le persone avevano bisogno di quel tuo servizio lì. Il problema è che le persone poi lo fanno con un approccio, con un atteggiamento, e qui vengo al secondo argomento fondamentale di questa puntata, che oggi è diventato insostenibile per certi versi, e per me perlomeno era assolutamente insostenibile. E quando io vedevo cose di persone che pretendevano di essere risarcite su situazioni particolari, ma io lo sapevo che quella persona era magari un disonesto, che stava facendo una cosa che non poteva fare, ma che comunque alla fine il meccanismo gli consentiva di farlo, e io questa cosa proprio non potevo assolutamente sopportarla, insomma, ed è chiaro che mi rendo conto che alla fine è anche un limite dal punto di vista professionale, perché io conosco gente che invece veramente riesce a mettersi quella maschera quando entra in quella determinata situazione, no? E quindi alla fine ha questa grande capacità di riuscire a risolvere tutto, da portare tutto dalla propria parte, e io questa cosa non riesco a farla, onestamente, cioè lo ammetto che non riesco a farla. E poi c'è un argomento più particolare, quello che diciamo, adesso faccio una transizione, non voglio arrivare subito a quelli che ce la sanno, no? Voglio arrivare a quelli che comunque pretendono di entrare in un contesto che è quello di un ufficio, un contesto lavorativo, dove praticamente tu sei lì a fare una funzione, che è una funzione pratica, anche di supporto, anche di servizio, e dove determinate cose non dovrebbero entrarci, ma alla fine ce le buttano dentro. Ossia, praticamente la persona che cerca di fare discorsi politici o discorsi generali legati a comunque una questione di opinione in un contesto dove questa cosa non dovrebbe succedere, ed è una cosa insopportabile. Questo è un altro motivo per il quale mia moglie ha detto: senti, fai altro nella vita e piuttosto di venire qua a cacciare i clienti, perché poi, no, cioè, nel senso, io faccio fatica in generale, no, a gestire. Io vedo, ho visto una volta, era un ufficio, stavo dietro al mio monitor, quindi non mi si vedeva. Entra sto cliente e comincia a contrattare con Michela. Poi a un certo punto Michela dice: guarda, è 806 euro, perché comunque alla fine, e ti ho fatto già lo sconto. Dice: no 800, no, io non te lo posso far pagare 800, perché sennò dovrei metterle io le 6 euro, no? Cioè, perché ce le devo mettere io? Ma oramai ti ho staccato l'assegno 800. A quel punto sono uscito fuori, io col capoccione gli ho detto: signore, ma mica stai al mercato? Cioè, nel senso, ma stai a trattare con una professionista, rispetta la professionista che è di fronte a te. T'ha fatto già lo sconto, t'ha detto che t'ha messo già nelle condizioni, ma perché la devi mettere in difficoltà? A me, se non concesso che è la titolare dell'ufficio, ma se fosse stata una dipendente sarebbe stata anche peggio, no? Chiaramente, la mettevi veramente in difficoltà. Ma poi è proprio stata: oh, ma mica stai al mercato? È una cosa fantastica. Oppure quelli che entrano e ti dicono: ma è il governo. Qua, ecco, è successo recentemente, forse non dovrei raccontarlo, però lo racconto. Entra sta tizia con la mascherina, perché adesso il problema è la mascherina, ragazzi. Una volta era qualsiasi altra cosa, le assicurazioni, le banche, tutto un complotto e via dicendo, e tu stavi lì, spesso e volentieri ti azzittavi, diciamo, non dicevi niente, però insomma si capiva che volevi chiudere subito il discorso, no? Ma adesso sono le mascherine, chiaramente. Adesso il male di questa fase della nostra storia sono le mascherine. Quindi entrano quelli che entrano con la mascherina, chiaramente. Vabbè, da noi non si entra senza mascherina, quindi e qui devo dire, faccio un applauso a Michela, perché riesce a fare una cosa che io avrei fatto sicuramente più brutalmente, no? Invece lei riesce comunque a dire: ok, no, io sono gentile e cara, ma questa cosa non se transige, no? E beh, entra sta tizia con la mascherina con scritto bavaglio di Stato. Cioè, raga, io, e qui ritornavo sempre al discorso, io non l'avrei potuta sopportare una cosa del genere. Nel senso, Michela, questa cominciava: no, perché bavaglio di Stato, bla bla bla. Michela cercava, insomma, di glissare, no? Di cercare di evitare, insomma, di entrare nell'argomento, no? Però no, è il bavaglio di Stato. Alla fine queste continuavano a cercare. E io devo dire che lì anche lei è brava. Io non cioè, gli avremmo levato sta. Ma poi dopo, capito? Cioè, cercherei all'inizio, magari educatamente, no? Cercherei di far capire: no, guarda che così colà. Poi, siccome che la gente oramai, quando si è impostata su un certo tipo di discorso, perché l'ha letto su Facebook, insomma, oramai è difficile da spostare da quel punto di vista, no? E quindi c'è sta cosa che tu devi stare lì e devi far capire al cliente che la discussione deve cadere, soprattutto se ci sono anche altre persone, perché poi dopo quello che succede è che uno scatena l'altro e diventa una cagnara all'interno dell'ufficio, di gente che parla di cose che tu li ammazzeresti, cercando di far capire che noi qui stiamo a fare un lavoro. Quindi ritorniamo sul focus. E anche qui devo dire, Michela è abbastanza brava da questo punto di vista, e io questa cosa probabilmente non la saprei fare. Adesso vi faccio sentire un pezzettino di un brano, perché è l'argomento finale di questa puntata, ma veramente un pezzettino, eh. Il dibattito sia aperto, parleranno tutti quanti, dotti medici e sapienti, tutti intorno in una pezzale di un malato molto grave. Anzi, già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto. Così giovane è un peccato che si sia così conciato. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è... Allora, questa canzone l'ho scelta anche grazie al suggerimento di Walter Sbano, perché stamattina praticamente dicevo: ragazzi, ma viene in mente una canzone sui sapientoni, no? Sui saccenti. E è venuta giustamente in mente questa, che a me non mi sarebbe venuta in mente. Comunque Michela dice che ci ascolta con i giga illimitati. Alex gli fa presente che è un'illusione il fatto dei giga illimitati, perché pagherà questa cosa con il sangue dei suoi discendenti. E che poi Alex giustamente fa riferimento al fatto che secondo lui questo non è un mio comportamento reale, ma è praticamente una cosa che io faccio per farmi espellere dall'ufficio. Guarda, l'hanno pensato in tanti sta cosa, probabilmente c'è anche una parte di verità in tutto questo, però sicuramente non è proprio così voluto. Diciamo che veramente non, a volte ho fatto veramente fatica. Io ci sono memorabili, insomma, le telefonate in cui mandavo a fanculo la gente di fronte ai clienti sbattendo il telefono, insomma, quindi sono se botte da matto che uno deve evitare, no? Perché comunque chiaramente. E invece quest'ultima seconda parte, proprio brevemente, prende spunto dal fatto che una delle prime volte che sono andato dal nuovo dottore, che oramai vabbè sono anni che ci sta, quindi insomma non è più nuovo, no? Però insomma siamo messi là, lui ha guardato le analisi, ha fatto un po' tutto, mi guarda, se non cominciamo a parlare, no? Perché tu c'hai questo, tu c'hai quell'altro. Poi a un certo punto mi fa: se tu sei d'accordo, io farei questa terapia qua. E io rimango un attimo un po' in silenzio, dico: dottore, in che senso se sono d'accordo? Insomma, qui oramai da quando io sono subentrato pare che tutti hanno un'opinione sul modo in cui devono essere curati. E io ho detto: guardi, dottore, io non è che so uno che si affida ciecamente alle situazioni, però è chiaro che lei è il professionista, lei è il dottore, io non so dottore, quindi... parto dal presupposto che sicuramente in buona fede lei insomma faccia il meglio per quello che può essere. Io non c'ho le condizioni per poter contestare questa cosa, no? E lui mi diceva: lei è praticamente uno dei pochi, insomma, perché qui vengono tutti col fatto che leggono le cose su Facebook, su internet, e vengono tutti già saputi, insomma, no? E questa è una cosa che a me veramente mi accappotta la pelle, perché cioè tu sei lì, hai studiato anni, sei preparato, hai fatto una formazione, anzi nel caso del medico addirittura una laurea, una specializzazione, quindi insomma alla fine c'è lavoro dietro, soprattutto i medici, no? Ma questa cosa poi succede in realtà in generale, perché io quante volte anche quando c'ero ancora io in ufficio, e poi successivamente Michela mi racconta, la gente che entra dentro e pretende di spiegare a te il modo in cui si fanno le cose, o no, io lo so che questa cosa è così, oppure io ho il diritto di fare questo, e oppure che ne so, gente dice: devo bloccare la polizza, ma guarda, questo tipo di polizza non si... no, assolutamente non è così, io lo so perché queste informazioni e qui e là, le informazioni sono sbagliate, cioè, ma non perché... Cioè, può anche stare, no, che arriva una persona che comunque è competente in qualche maniera. Il problema è che non è così. Le persone entrano dentro un posto, si mettono sedute, tu gli dici come stanno le cose e loro ti iniziano a spiegare come in realtà sarebbero le cose, che in realtà invece è come loro vorrebbero che fossero le cose, o come magari hanno letto da qualche altra parte, oppure c'è anche quel comportamento così profondamente deontologico di altri colleghi che magari sono stati consultati perché l'amico gli ha detto: guarda, va a parlare con quello perché secondo me è così, e il collega gli dice: sì assolutamente, tu c'hai ragione, quelli si stanno comportando male, no? E perché questo è un'altra cosa che succede spesso, no? E io, a me, raga, cioè, il problema è che noi abbiamo perso proprio il controllo, non soltanto su sulla base di un'educazione civica e politica che dovremmo avere in generale, no? Ma abbiamo perso proprio il controllo anche sulla nostra capacità di comprendere le cose, e più non le comprendiamo e più pretendiamo di pensare che le sappiamo e che abbiamo capito noi come funziona. È una cosa assolutamente insopportabile, assolutamente ingestibile da questo punto di vista, perché è chiaro che il professionista a volte si trova anche in difficoltà. In difficoltà anche di fronte a persone che magari sollecitate magari dall'avvocatino che comunque dice vabbè io intanto 600 euro me ne metto al pizzo comunque vada, magari te fanno pure problemi, perché magari te fanno dei solleciti alle istituzioni o che ne so agli organi competenti del controllo, poi dopo non succede niente chiaramente, perché però quello ha speso soldi, tu hai perso tempo e il meccanismo ha consumato tempo e soldi semplicemente perché una persona sa come funzionano le cose quando poi alla fine non le sa. Cioè è una cosa che non so, ditemi voi se sta cosa vi manda ai matti. Ecco, per esempio abbiamo Roberto in chat, anche nell'ambiente dell'edilizia, io immagino, infatti magari raccontaci. Vabbè, raccontaci, dici magari se c'è velocemente una situazione nella quale tu come architetto ti presenti in un contesto dove dici ragazzi ma sto arco a semivolta così da sto punto di vista non si può fare perché è fisicamente improbabile, ma questo lo dice lei, io invece lo so che si può fare perché l'ho visto su internet. Cioè, è che se sono quelle cose che veramente mi fanno incazzare in un modo fuori controllo, ma cioè io poi mi rendo conto che sto sbagliato, no? Cioè nel senso, allora vediamo un po', anche nel video sì ma io, ma forse nel video è anche peggio, forse nel video è anche peggio, perché il video richiede nella preparazione, nella produzione e nell'elaborazione finale comunque una competenza tecnica, però diciamo poi dopo il discorso più globale dipende anche da un fattore di gusto, no? Di gente che dice io lo so come si comunica, no? Però anche lì sì, c'è una tecnica, c'è uno studio, però diciamo che ci può anche stare che uno può esprimere. Il problema è che dicono un sacco di cazzate. Cioè io, vabbè, poi Alex abbiamo avuto pochissime volte occasioni dove abbiamo fatto delle cose insieme magari con altri, no? Però e lì ho visto quanto è bravo lui, cioè nel senso, perché in situazioni dove io avrei già preso a sganassoni tutti, lui comunque alla fine è accomodante, riesce a avere questo... Ciao psicologo, ho detto tutto. Sì, ma dice Lobby, giustamente. In ogni contesto c'è questo tipo di problema, no? E poi alla fine è difficile pure parlarne, no? Perché poi alla fine, vabbè, ma sei strano te. Ma io non so strano. Cioè, siete una manica di imbecilli che non capite che tutte le informazioni che voi prendete, a parte che sono sicuramente delle semplificazioni, sono decontestualizzate e sicuramente meritano un incrocio d'approfondimenti rispetto a quella che è il tipo di problema, no? Soprattutto quando riguarda contratti assicurativi, bancari, perché voi già partite dal presupposto che sul sito dei BioBlu c'è sta scritto che sono tutti zozzoni e quindi sono tutti zozzoni. E il problema è che si prende oramai per menzogna in senso assoluto tutta quella che è l'informazione istituzionale e si prende per principio invece per corretto tutta quella che è la informazione collaterale, no? quella trasversale, quella che viene da fonti alternative. Ma siccome che noi oggi non abbiamo più la pazienza e la capacità di andarci a informare, no? Sulle cose, cioè non andiamo a vedere come funzionano, cioè non ci andiamo a vedere se c'è un articolo che dice la stessa cosa, no? Scusate un secondo, stavo morendo praticamente, non so, c'ho un po' di tosse. Non è che c'è, diciamo, vabbè, ma questa cosa sulla legge Bersani scritta così in quattro righe, così che io la capisco, magari in un'immagine Facebook, però dopo fammela vedere se è veramente così. No, loro con quell'immagine ti vengono dentro l'ufficio e ti vengono a dire che è assolutamente in questo modo, insomma. E vabbè, questo è. Cioè, stamattina c'avevo un po' sto sfogo perché mi è rimasto dall'altra settimana sta cosa, già quella che era entrata col bavaglio d'estate. E poi quando ti dicono no, ma te, cioè, è la cosa che a me mi ha sempre fatto impazzire, non è il fatto che una persona esprima opinioni al di là di quanto possano essere banali o possano essere scorrette, è il fatto quando ti dicono te lo spiego io, che poi io non lo so da voi, però questa è una cosa tipicamente romana, cioè proprio oh, ma sta buono, mettete seduto che mo te lo spiego io, no? Cioè, allora, l'unica cosa, dice Roberto Marin, è metterlo nell'angolo. Sei sicuro sia così? Sicuro, sicuro? C'è la liberatoria? Vabbè, il problema è però... Ok, tu dici... Ok, se tu sei talmente convinto di questa cosa che tu dici... io ti faccio firmare la liberatoria, un documento del quale tu attesti, insomma, che sei sicuro di quello che dici. No, suppongo che sia un po' questo il discorso. Ma in realtà poi quando tu stai lavorando a livello assicurativo... e tu pretendi che io faccia una cosa che non è contemplata dal sistema, perché non si può fare, perché la legge dice determinate cose, non è che lo dico io che so zozzone che te sto a rubare, è la legge che dice determinate cose. Tu non puoi venire a dire ah, la legge. E poi tra l'altro questo problema della legge, quindi sta cosa di internet che spiega la legge alla gente, ce l'hai anche nelle situazioni più, come te posso dire, un po' più povere, un po' più becere. Qui non prendetemi per razzista, ma quando io vado, e sapete perfettamente che non lo sono, ma quando io vado al benzinaio, no? E trovo il filippino o il Bangladesh senza mascherina, e tu gli dici guarda che ti devi mettere la mascherina, no, io conosco legge. A me sta cosa, regà, cioè io uscirei con i bastoni e comincerei a sfasciare prima il distributore, perché lì c'è un proprietario stronzo che mette una persona sottopagata perché comunque gli fa comodo così, che però dopo alla fine non gli dà neanche una regola, non gli dà neanche un sistema di controllo, capito? Cioè, questa è una cosa che a me mi fa impazzire proprio profondamente. E quindi ecco, questa è un po' la cosa che a me il ristorante, una volta il cliente mi portò dei prodotti da cucina, non esiste, cioè, non hai vinto. Ecco perché è un'altra cosa, no? Perché con Matteo ogni tanto ragioniamo, dice vabbè, ma magari apriamo un pub, no? Apriamo che ne so, un ristorante, no? E assolutamente non lo so, io non dovrei stare in cucina, ecco, se sto in cucina non vedo, non sento, però mi arriva qualcuno e mi dice guarda devi cucinare sta cosa, no, a parte che non credo manco se possa fare, perché comunque cioè, deve essere un controllo sulle robe che entrano comunque in cucina, no? Ma questa era come la famosa storia, Alex sicuramente se lo ricorderà, e qui vado a chiudere, di quella volta su A Morti di Bestemmie, quando raccontammo della signora che mise la recensione negativa a una stella a un ristorante perché quelli si erano lamentati perché lei aveva messo il vasetto del figlio e il figlio a cagare sul tavolo dentro al ristorante. Cioè, mortacci vostri, capito? Cioè, mi viene solo da dire mortacci vostri. E questo comunque era cuciniere quello che ci ha detto sta cosa del... Una volta a Livorno, allora, una seconda porzione di insalata di polpo. Allora, poi mi fece chiamare perché diceva che non era lo stesso polpo di prima. No, e ho detto non lo posso fare. Comunque ringrazio Cuciniere, ringrazio Alex, ringrazio Michela, ringrazio Lobby Frontali, Roberto Marin per essere stati a questo episodio. Vi ricordo questa sera alle ore 21 e Dio si riprese la sua mano con di OGM, quindi OGM è dedicato, i primi 10 minuti dedicati a Maradona e poi tutto quanto il resto. E vi ricordo domani sera una puntata speciale di archeologia videoludica, archeologia informatica insieme, il codice della scimmia, perché per il 30° anniversario di Monkey Island è stato fatto questo evento dove è stato anche presentato il codice sorgente, che finalmente insomma è stato reso pubblico, e sicuramente all'interno di quel codice ci saranno altre storie da raccontare, sicuramente vi interessa. Detto questo, per la prossima settimana, come ho detto in Buongiorno Cazzo, torneremo a parlare di cose pregne, insomma di cose abbastanza più in tema con quello che era il progetto di questa trasmissione, però appunto prendendo spunto da Leo e dalla sua riflessione di giovedì, mi è sembrato giusto insomma fare questo mio piccolo approfondimento, perché l'ho insomma mi è venuto in mente, quindi lo ringrazio di questo. Detto questo, vi ringrazio a tutti, ci vediamo lunedì, anzi ci ascoltiamo lunedì prossimo sempre alle ore 10. Ricordatevi che sì, è un buongiorno, ma è sempre un buongiorno un cazzo.